notizie in 60 minuti. Cari ascoltatori di Radio 24, un buongiorno da Gigi Donelli. Quando mancano 10 secondi alle 13 inizia il nostro spazio di approfondimento di metà giornata, naturalmente tutte le notizie, poi il tempo anche per qualche riflessione ed approfondimento. E mentre scoccano le 13, sentiamo allora quali sono i titoli principali di oggi. Disoccupazione e PIL torna al segno positivo, a luglio 44.000 occupati in più rispetto al mese di giugno. Caos per i migranti a Budapest, la polizia chiude la stazione Altolà dell'UE a Londra, la Merkel dice un accordo va trovato per aiutare Roma. Borsa europea al via deboli, poi peggiorano, Milano meno 2, scivolone borse asiatiche dopo i minimi del manufatturiero in Cina. Roma sempre al centro dell'attenzione, Gabrielli dice badante o matrigna di Marino, io sono un leale collaboratore. L'ISIS, i satelliti dell'ONU confermano distruzione del tempio di Bel, intanto 200 armati di Boko Haram raggiungono Sirte. Eccoci qua dunque, questi i titoli principali di una giornata che continua a raccontare in questa in questo primo giorno di settembre, questo grande scenario delle migrazioni verso l'Europa. Naturalmente torneremo ad approfondire questi aspetti. Avete sentito nei titoli, in particolare la situazione è calda sul fronte di Budapest, così come lo è stato nei giorni scorsi e continua ad esserlo in quella che ormai viene definita comunemente la rotta balcanica, cioè quel percorso che dalla Turchia, quindi dall'esterno dei confini dell'Unione Europea, attraverso la Grecia si dirama poi attraverso Bulgaria, Macedonia, Serbia naturalmente, e dunque in questa fase in particolare in Ungheria, tenendo sempre come bussola quello che è il cuore dell'Europa, il cuore produttivo, la Germania e non solo. Ma adesso partiamo invece con Vincenzo Miglietta per riprendere la notizia di apertura dei nostri titoli. Dunque, segni positivi per quanto riguarda disoccupazione e PIL. Vincenzo. Sì, buongiorno Gigi, partiamo allora dai numeri con l'Istat che oggi rivede i dati del prodotto interno lordo relativi al secondo trimestre e la correzione è decisamente positiva, più 0,3% invece che 0,2% rispetto al primo trimestre di quest'anno e soprattutto più 0,7% su base annua, da più 0,5% sul 2014, l'aumento tendenziale quest'ultimo più alto da 4 anni, ossia dal secondo trimestre del 2011. Buone notizie quindi anche sul fronte del mercato del lavoro, dove si registra una netta discesa del tasso di disoccupazione che a luglio segna un 12%, toccando i minimi dal 2013, bene in particolare la fascia dei 15-24 anni. Il tasso a luglio cala al 45% ed è il più basso dallo stesso mese di 2 anni fa. In salita anche il tasso di occupazione che nel settimo mese dell'anno raggiunge il 56,3%, tornando ai livelli di novembre 2012. Ma dato particolare che riguarda il Jobs Act, nel secondo trimestre per l'Istat continua l'aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato, riguarda gli ultra cinquantenni e interessa soprattutto donne, terziario, centro e mezzogiorno. In generale dati che fanno sorridere il governo, si dimostra che le riforme servono, commenta il presidente del Consiglio Renzi. Ascoltiamo allora le sue parole. E gli ultimi dati che arrivano anche sulla crescita dimostrano una cosa molto semplice: non siamo ancora la maglia rosa, non siamo quelli che crescono più di tutti, ma siamo tornati nel gruppo, e siamo tornati nel gruppo grazie al percorso di riforme che abbiamo fatto e che stiamo facendo. In chiusura Gigi il commento del presidente di Confindustria Squinzi, che dice: spero che i dati Istat indichino l'avvio della ripresa vera. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Sì, tra l'altro proprio in questo istante un'altra agenzia che riprende sempre il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, in questo caso è un po' più duro, dice lo 0,3% del PIL non basta, non è merito nostro, dice la crescita del PIL appunto non basta anche perché non è merito nostro ma è dovuto solo al dimezzamento del prezzo del petrolio, al rafforzamento del dollaro e al QE, dunque il quantitative easing. Insomma, la strada sempre sembra ancora lunga, e sentiamo invece, almeno nelle ultime ore, quanto sia stata complessa la strada delle borse internazionali, naturalmente con Deborah Rosciani. Allora, abbiamo un quadro largamente negativo questa mattina in Europa. Milano perde l'1,4%, perde un po' meno del resto d'Europa. Speriamo che questa minor perdita sia da ricondurre proprio alle statistiche che abbiamo diffuso poco fa, questi segnali di ripresa economica che si intravedono per il nostro paese. Per il resto, vendite diffuse, perché stamattina sono stati diffusi i dati sull'andamento del settore manifatturiero in tutto il mondo. Ha cominciato proprio la Cina con la prima statistica molto presto, e l'indice PMI manifatturiero di agosto è sceso a 47,3 punti, ai minimi dal 2009, circostanza che ha scatenato immediatamente le vendite sui mercati asiatici, anche se c'è da dire che i listini cinesi hanno perso molto meno, per esempio di Tokyo, che ha chiuso con un ribasso di quasi 4 punti. Per il resto poi statistiche dello stesso tipo diffuse anche per quello che riguarda le principali economie dell'Eurozona. Il dato di agosto dell'Italia è sceso, quello tedesco è aumentato, un quadro differenziato che sta portando stamattina vendite molto consistenti fra i listini continentali. Parigi perde 2 punti, Francoforte perde 2 punti e mezzo, Londra meno 2,19, Milano, dicevamo, perde un po' meno, meno 1,4. Francoforte ha perso anche oltre 3 punti percentuali. A Piazza Affari tiene Eni, che è leggermente in rialzo, per il resto il segno meno prevale su tutti i titoli. Particolarmente forti le vendite sui titoli del lusso, che evidentemente sono molto esposti con il loro business anche sui colossi asiatici, e Salvatore Ferragamo, Moncler e Yux sono in calo netto fra i 2 punti, 2 punti e mezzo, 4 punti. In calo anche Fiat meno 2,79, e l'euro è a 1,12,65 sul dollaro. Per ora, Gigi, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E dunque l'immigrazione, il tema resta quello di fatto più diffuso, sicuramente, se non condiviso nelle problematiche, condiviso nelle prime pagine dei quotidiani europei. Pochi istanti fa Angela Merkel dice: non vedo corresponsabilità nella situazione che si sta verificando in Ungheria, dove migliaia di migranti chiedono di andare in Germania. Perché questa risposta? Perché quanto accaduto nelle ultime ore, che ha visto la Germania sospendere di fatto Dublino 3, il meccanismo ormai noto in favore dei siriani e solo dei siriani, ha innescato una sorta di ola della migrazione verso la Germania. Naturalmente spesso in questi casi è anche difficile avere chiarezza di certi meccanismi. Angela Merkel dunque in questa nota dice: non vedo corresponsabilità, e ha ricordato che la scelta appunto della Germania vale solo per i siriani. Ma sentiamo il servizio di Andrea Viali. Governi e cancellerie europee sono al lavoro in vista del vertice straordinario del 14 settembre. L'obiettivo è quello di trovare misure condivise per affrontare l'emergenza migranti. Gli arrivi dalla rotta balcanica e dal Mediterraneo continuano. La Commissione europea pensa a regole comuni sul diritto d'asilo e ieri ha bacchettato la Gran Bretagna, che ha lasciato intendere di essere pronta ad una stretta sui nuovi arrivi. Contraria alla chiusura delle frontiere si è detta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha chiesto aiuti per l'Italia e stamattina ha incontrato il premier spagnolo Mariano Rajoy. Quest'ultimo ha detto di condividere il principio della distribuzione dei profughi in tutti i 28 paesi europei, ma ha chiesto chiarezza sui parametri che verranno utilizzati per definire le quote. Merkel, dal canto suo, ha sottolineato che Berlino non ha responsabilità in quanto sta accadendo a Budapest, dove stamattina le autorità ungheresi hanno deciso di chiudere la stazione ferroviaria assediata da migliaia di migranti, molti dei quali chiedono di raggiungere proprio la Germania. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco dunque che la stazione di Budapest Keleti diventa uno dei nodi di questa appunto vicenda, che è questo percorso, questa rotta balcanica. Prima di affrontare invece il lato mediterraneo, di tornare dunque a casa nostra, mi piace ricordarvi che da questa settimana, per 5 settimane, Radio 24 è sul campo per raccontare quanto appunto sta accadendo, cominciando dal racconto delle frontiere esterne. Quindi l'Ungheria è una di queste, perché confina ovviamente con la Serbia, e per questo diventa un luogo di altissima tensione. Quindi Euroreportage nel fine settimana, approfondimenti nei nostri giornali radio, ampio spazio per ascoltare appunto le voci, gli eventi in corso sul fronte della migrazione. Intanto sul fronte sud Sud, per così dire, proseguono le indagini sul duplice omicidio dei coniugi a Palagonia, che per ora conducono al 18enne della Costa d'Avorio, ospite del centro per richiedenti asilo di Mineo a Catania, uno dei più grossi centri di tutto questo arcipelago dei centri europei. La struttura di accoglienza, peraltro coinvolta pesantemente nell'inchiesta su Mafia Capitale. Un vero e proprio tariffario per le tangenti, un euro per ogni migrante collocato nei centri d'accoglienza. Gare d'appalto inserite in un articolato sistema di favori e scambi, in denaro o voti elettorali, spartiti tra destra e sinistra per polarizzare l'emergenza migranti in mano a pochi soggetti e annientare la concorrenza, in Sicilia come a Roma. Le intercettazioni tra Luca Odeven e gli esponenti del gruppo La Cascina, cooperativa che si è aggiudicata la gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, secondo il GIP di Roma sono incontrovertibili. Dal verbale trasmesso alla Procura di Catania, che registra un interrogatorio dell'11 luglio, Odeven ammette di aver ricevuto tangenti mensili di 10.000 euro, poi diventati 20.000, per aver favorito la vittoria della cooperativa La Cascina. Luca Odeven, arrestato lo scorso dicembre per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, era membro del tavolo per l'emergenza profughi al Viminale e fu incaricato di gestire il CARA di Mineo, il centro rifugiati più grande d'Europa, bandendo una gara d'appalto da 100 milioni di euro. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma, restiamo a Roma per parlare di Giubileo, che da una parte è sicuramente un enorme mal di testa per chi si deve occupare della sicurezza. Dunque, questa mattina Franco Gabrielli dice: dobbiamo far sì che tutti gli apparati lavorino per la prevenzione. Se un ultraleggero in volo è troppo tardi, non è che poi possiamo chiamare gli Eurofighter per abbatterlo. Così appunto il prefetto di Roma, rispondendo a chi gli chiedeva come sia possibile proteggere i cieli della capitale durante il Giubileo, ma non solo, da un eventuale attacco dell'ISIS. Ovviamente il pensiero è andato ai funerali Casa Monica, quando un elicottero si è alzato in volo per spargere rose e petali di rosa davanti alla chiesa. Ma naturalmente il Giubileo è anche un'altra parte che riguarda naturalmente il mondo cattolico, ma non solo, e oggi il Papa è intervenuto spiegando, di fatto dando alcune regole che riguardano questo evento. Sentiamo. Pieno perdono a quelle donne che nella loro vita sono rincorse alla pratica dell'aborto e si sono pentite di quanto fatto. A disporlo, invitando i sacerdoti a prepararsi in questo senso, il Papa, che in una lettera al presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Monsignor Fisichella, in vista del Giubileo straordinario, ha reso note alcune disposizioni per accedere al perdono. Per vivere e ottenere l'indulgenza, i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo, e nelle quattro basiliche papali a Roma, così come nei santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese tradizionalmente identificate come giubilari. Dal Papa un appello agli Stati, ricordando che il Giubileo ha sempre costituito l'opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che hanno preso coscienza dell'ingiustizia compiuta, e anche un passaggio dedicato ai lefreviani, confidando, ha scritto Francesco, che nel prossimo futuro si possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione con i sacerdoti e i superiori, e riconoscendo la validità della confessione presso i suddetti sacerdoti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie anche a Katia Caramelli. Adesso facciamo un punto invece con Carlo Getta sullo sport, poi la viabilità, poi abbiamo ancora un po' di elementi di cronaca. Dunque, Carlo Getta, io più o meno ho titolato che il calciomercato è chiuso, giusto? E sì, ora tocca la nazionale. Adesso passiamo dal sacro al profano. Ah, che sarebbe la nazionale. Okay. Che sarebbe il calciomercato. Ah, che certo, che rispetto al servizio di prima, scusa, esatto, me l'ho distratto. Certo. Che calciomercato che si è chiuso con alcuni colpi dell'ultimo giorno. Fa molto rumore il passaggio di Hernanes dall'Inter alla Juventus dopo 11 anni che questi due club non si parlavano, non facevano affari. Però Hernanes appunto va alla Juventus, è il trequartista che Allegri voleva, 11 milioni più 2 di bonus. Poi l'Inter si è consolata perché Mancini ha avuto quello che chiedeva, cioè Felipe Melo, che chiedeva da un sacco di tempo, passa appunto dal Galatasaray, 3 milioni e mezzo la quotazione. Tajes, il terzino sinistro, anche questa una delle forti richieste dell'allenatore nerazzurro. E gli Aic, che dalla Roma passa all'Inter e sarà all'esterno. Tutti all'Inter che ha rivoltato la squadra come un calzino. Poi c'è la Fiorentina che fa un bel colpo con Błaszczykowski, che era stato uno dei grandi protagonisti del Borussia Dortmund di Klopp, è incappato in un paio di stagioni difficili anche a causa infortuni, ma è un signor giocatore se riesce a riprendersi. C'è stato anche un colpo mancato dell'ultimo istante, cioè quello di Soriano, di cui si è parlato tantissimo. Era promesso sposo del Milan, poi non c'è stato l'accordo tra Milan e Sampdoria, il Napoli si è prepotentemente inserito, ieri l'ha trattato tutto il giorno, alla fine c'è stato il sì del giocatore che ha aspettato il Milan fino all'ultimo momento, ma il contratto è stato depositato in ritardo e quindi Soriano rimane alla Sampdoria. Un finale anti-manzoniano, questo matrimonio non sa dato da fare, ma ecco, una battuta, in tutti questi nomi alla fine la campagna acquisti migliore chi l'ha fatta? Difficile dirlo, io dico che la Juventus ha speso oltre 150 milioni, il calcio italiano ha speso 600 milioni di euro, tutto compreso, ed era dal 2001 che i nostri club non spendevano così tanto, l'Inter ha rivoluzionato la squadra, staremo a vedere, e quindi stiamo a vedere, e naturalmente staremo a sentire, no? Aspettiamo la nazionale con Malta e Bulgaria, sono due impegni sulla via degli europei che insomma non dovrebbero essere abbordabili. Possibili. E naturalmente continuiamo a parlarne oggi pomeriggio, subito dopo le 14. Grazie a Carlo Genta. Adesso viabilità, poi naturalmente altre notizie di cronaca. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, da Laura Faggin, da Pietro Lacorte in regia, da Piera Cece che ci ha raggiunto in studio, tra un momento parleremo anche di scuola. Dunque le notizie principali di oggi ci parlano naturalmente dei dati dell'economia, rivisto al rialzo il PIL, il trimestre al più 0,3%, accolto con il sorriso da parte del governo, il non basta da parte dei vertici di Confindustria, il caos dei migranti, in particolare a Budapest, dove la polizia ha chiuso la stazione e continua il braccio di ferro a distanza di Londra con Germania e altri circa le politiche, le decisioni che Londra intenderebbe assumere nei giorni a venire. Questi i temi principali, naturalmente si parla già e anche parecchio di giubileo sia sul fronte della sicurezza che sul fronte, come abbiamo sentito nel servizio di Katia Caramelli, delle decisioni assunte in materia dal Papa. Ma adesso abbiamo ancora almeno due elementi di cronaca in sospeso. Il primo ci porta a Cagliari per un tentato assalto ad un portavalori. Assalto a un portavalori questa mattina poco dopo le 8 sulla strada statale 131 Carlo Felice. Un comando composto da una decina di rapinatori armati di mitraglietta è entrato in azione in una zona non distante da Bonorva in provincia di Sassari. Dopo aver aperto il fuoco e causato il leggero ferimento di un vigilante e aver incendiato un'auto per ostacolare l'inseguimento, i rapinatori sono riusciti a fuggire. La notizia deve essere ancora confermata, ma ammonterebbe a circa 500.000 euro il bottino nelle mani dei rapinatori. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia di Stato, che sta dando vita in queste ore ad una gigantesca caccia all'uomo anche con l'ausilio degli elicotteri. Giuseppe Murru, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. E da Cagliari restiamo dunque nel Mediterraneo, assolutamente, spostandoci però a Barcellona. Barcellona deve fermare il degrado, l'abusivismo e quant'altro danneggia l'immagine della città. Parola della sindaco di Barcellona, Ada Colau, che in particolare se la prende con Airbnb, quindi il sistema, la piattaforma di affitto di case private che via via nel corso degli anni è diventata particolarmente popolare. Sentiamo. Ada Colau, sindachessa di Barcellona, non è la prima né l'ultima politica locale che si confronta con il grande cambiamento portato da Airbnb. In fondo questa è una delle tante battaglie nate attorno a quella che definiamo share economy, che ha tanti pregi ma scatena anche parecchi problemi. Ad esempio a Barcellona l'offerta di posti letto da parte di privati cittadini è il doppio di quella degli appartamenti turistici autorizzati, 137.000 contro 78.000. La città ha una media di 27 milioni di visitatori l'anno e si capisce bene che se non strutturato questo turismo si fa fatica anche a gestirlo, soprattutto se i soldi portati da questi turisti non finiscono neppure in piccola percentuale nelle casse del comune. La verità è poi che il sistema che chiameremo Airbnb sta facendo impazzire anche il mercato degli affitti. Case che costavano a Barcellona 300 euro al mese ora vengono affittate a 600-700 euro e la gente del posto non ce la fa e abbandona il centro. È su questo che si scaglia soprattutto il sindaco. Negli Stati Uniti, Pat patria di Airbnb, si sta mettendo riparo in qualche modo. A Santa Monica, vicino a Los Angeles ad esempio, è stata definita una regolamentazione che prevede che chi affitta dovrà dormire nella proprietà nel corso del soggiorno del visitatore, ottenere una licenza e riscuotere la tassa di soggiorno del 14%. Perché è vero che se affitti su questi siti una stanza o una casa non paghi le tasse, ma ognuno di questi siti chiede in media una commissione a chi affitta del 10, ma anche 20% sul prezzo di partenza, e all'affittuario decurta un 3% sul prezzo impostato. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prove generali di campanella, di prima campanella qui a Radio 24, perché l'apertura della scuola è ormai imminente, anzi in realtà le scuole sono già aperte, perché sicuramente per chi ha i debiti. Esattamente, proprio in queste ore molti stanno facendo l'esame, ieri sono stato sgridato perché avevo detto le materie a settembre e Carlo Genta in diretta mi ha detto no, assolutamente si chiamano debiti. Ok, dal mio punto di vista non cambia molto, ma quello che vorrei fare, e per questo saluto Maria Piera Ceci che come sapete tra le varie cose si occupa di scuola, e appunto come inizia quest'anno dopo la riforma, dopo i dibattiti, dopo le tante proteste. Allora, che anno ci prepariamo a vivere? Un anno di grandi cambiamenti, un anno che però, come necessariamente accade quando ci sono delle piccole rivoluzioni, un anno che sta partendo con un po' di confusione. Magari questo poi lo chiediamo al nostro preside Rusconi, che ovviamente avrà il polso della situazione. Tu hai fatto sentire una campanella, in realtà questa notte la campanella suona per non tanto per gli studenti che in queste ore sono impegnati con i debiti, con il recupero dei debiti, quanto per i precari, perché è una giornata importante. A mezzanotte un secondo, cioè, ci passata sarà... la prossima stasera, stanotte. Quindi i precari staranno facendo un sonnellino, così stanotte possono tirare tardi magari. Che cosa succederà? Arriveranno in via telematica le proposte di assunzione a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, previste dalla fase B della riforma della buona scuola. È molto complessa questa riforma e ci sono tante fasi. Di fatto in questo momento, la prossima notte, saremo alla fase terza, per cui arriveranno le proposte di sede, cioè il precario si vedrà arrivare una indicazione con la scuola nella quale dovrà prestare servizio. Cosa succederà a questo punto? Il lavoratore ha 10 giorni per rispondere, se non risponde vuol dire che non è interessato e decade. La domanda, altrimenti se rifiuta verrà automaticamente cancellato da tutte le graduatorie e perderà di fatto anche gli anni di precariato. C'è stata una forte polemica nei giorni scorsi perché naturalmente potrà capitare che a qualcuno, la Giannini dice siamo sul 10-15%, avrà assegnata una sede lontana da casa. Del resto ogni insegnante ha potuto inserire una lista, poi un cervellone elettronico che è diventato un po' un incubo di quindi tutti. Da un lato ci sono state delle preferenze, però sì, sono state segnate delle preferenze, detto, anzi, ma forse è inevitabile sui grandi numeri che qualcuno potrebbe più non essere fatto e qualcuno molto meno. E qualcuno meno. Prima di procedere, saluto dunque Mario Rusconi che ci ha raggiunto. Lo ricordo, Mario Rusconi insegna processi organizzativi della Scuola dell'Autonomia all'Università di Roma e vicepresidente Associazione Nazionale Presiti. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buona campanella anche a lei. Dunque, questo è diciamo un nodo. Maria Piera Ceci ci stava un po' illustrando la situazione. La mia curiosità, un po' anche da utente, da padre, evidentemente, visto che sono un po' vecchietto per la scuola, è che tipo di anno sarà? Abbiamo davvero risolto una serie di questioni e naturalmente per gli insegnanti è chiave. Lei come la vede? Ma guardi, io la vedo da due punti di vista. Le novità che lo studente il primo giorno di scuola, per esempio nel Lazio il 15 settembre, troverà. La prima novità, e non è una novità secondaria, è che avrà il 90-95%, le scuole italiane avranno il 90-95% dei professori non più precari stabilizzati, mentre invece noi sappiamo che in anni precedenti, magari non l'anno scorso o due anni fa, ma in anni precedenti, gli insegnanti arrivavano alla fine di settembre, poi dopo cambiavano magari dopo 10 giorni perché c'era tutta una girandola di precari. Ecco, questo è probabilmente l'impatto maggiore positivo che lo studente troverà. Poi si tratterà di vedere se gli è capitato come insegnante fisso una persona veramente valida, preparata o meno. E questo è un po' il nodo, no, della riforma, perché si è partiti con la prima parte della riforma, l'infornata di assunzioni che peraltro, come dicevamo, non è ancora conclusa. Dopodiché alcuni elementi sono ancora ancora rimasti invece in sospeso, come ad esempio quella della figura del preside, quindi un argomento che lei conosce molto bene, no? Certo. Si è parlato del preside sceriffo. In realtà poi si tratta soltanto di un preside che, come tutti i ruoli organizzativi, sarebbe tenuto a valutare e in qualche modo anche a decidere sì, che cosa fare. Ma appunto che probabilmente la novità più grande di questa legge, per quanto mi riguarda come professionista della scuola, ma direi anche come cittadino, che è stata molto sottovalutata dai media, devo dire onestamente, non dal Sole 24 Ore e da voi, non per piaggeria, ma perché avete un'impostazione più moderna, più europea, è il fatto che il preside, alla fine di un triennio, perché gli incarichi ai presidi sono triennali, sarà giudicato, sarà da un comitato di valutazione fatto da un ispettore, da un esperto del ministero e da un esperto esterno. E questo è importantissimo, perché dagli anni 70 ad oggi nella scuola è prevalso proprio l'inno di Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare, nel senso che né i presidi né gli insegnanti sono mai stati, non dico giudicati, ma almeno valutati professionalmente. Questo è una ferita inaccettabile. Con questa legge per la prima volta i presidi saranno valutati. Chiaramente i sindacati non hanno messo in risalto questo, perché avrebbe, diciamo così, smantellato un po' la loro fumisteria ideologica del preside sceriffo, quando io tra l'altro ho detto mille volte, trattandosi al 64% di donne presidi, almeno chiamatele non sceriffa la John Wayne, ma la Calamity Jane, insomma, almeno rispettiamo il genere pure degli sceriffi, insomma. Ecco, a livello invece di materie, visto che la carrellata deve essere un po' rapida, Rusconi, a livello di materie, quali novità troveranno gli studenti, anche gli insegnanti che si apprestano a iniziare questo anno scolastico? Guardi, in prima battuta si tratta di una legge delega, vale a dire una legge che ha bisogno di una serie di decreti attuativi che la renderanno poi fattibile, che saranno emessi nell'ambito di 2-3 anni, quindi non tutte le cose previste dalla legge avverranno subito. Ci sarà un potenziamento di alcune discipline, ne dico una per tutti, la storia dell'arte, che è un po' la cenerentola della scuola italiana in un paese che vanta il maggior numero di siti archeologici, artistici e così via. Ma l'altra grossa novità, anche questa che non si vedrà il 15 settembre ma verso novembre, è quella dell'organico funzionale, tradotto in soldoni, di quegli insegnanti in più, vale a dire in un liceo ci sono 10 cattedre di matematica, il ministero ne manderà un'undicesima, questo insegnante potrà contribuire a rendere più fattivo l'insegnamento in classe. C'è una classe in cui un gruppo di ragazzi vanno abbastanza male in matematica ed è un leitmotiv della scuola italiana, benissimo, si divide in due pezzi e rimane l'insegnante precedente con questo insegnante che potenzia i ragazzi meno preparati. Ecco, tutte queste novità positive che hanno bisogno di un certo sviluppo di almeno 1-2-3 anni sono state pienamente sottovalutate, mentre invece secondo me quando andrà pienamente a regime entro il 2017 la legge effettuerà, a parere nostro, se saranno mantenute tutte le promesse che il governo ha fatto, questa è una condizione inevitabile anche dal punto di vista finanziario, dei finanziamenti per l'edilizia scolastica, per gli stipendi degli insegnanti, per i bilanci delle scuole, potrà questa legge veramente dispiegare il suo carattere riformistico. Grazie a Mario Rusconi di essere stato con noi, lo ricordo vicepresidente dell'Associazione Nazionale Preside. Invece Piera Ceci resta qui con noi, sentiamo insieme la borsa perché è tempo di aggiornamenti ancora appunto dai mercati finanziari, poi torniamo su questo tema. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E siccome la scuola è un tema davvero grande, ho chiesto a PM Piera Ceci di rimanere qui ancora qualche momento, perché manca almeno un capitolo di questa prima di molte puntate, ma adesso invece è tempo di borsa, naturalmente. Sentiamo dunque da Radiocore chi c'è con noi oggi da Radiocore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con Effetto Giorno. Dunque in primo piano naturalmente le notizie economiche, rivisto al rialzo il PIL del secondo trimestre, un segno positivo, ma anche il caos per i migranti in Ungheria. A Budapest la polizia ha chiuso la stazione, una delle stazioni della città, la stazione di Keleti. Le borse avete sentito poco fa, quindi gli aggiornamenti sull'andamento, difficile ancora ancora della giornata, poi si parla oggi di Giubileo con l'intervento di Gabrielli, ma abbiamo lasciato in sospeso, abbiamo detto come era Piera Ceci, avevamo ancora qualche elemento da aggiungere sul tema della scuola. Cos'è rimasto, Piera? È rimasto questo, dicevamo appunto della notte che verrà e che significherà vedersi assegnata la sede e la scuola per tanti precari, quindi la terza fase del piano di assunzioni previsto dalla Buona Scuola. Però che cosa succederà? Siccome, come ormai siamo abituati, nella scuola le cose alla fine le decidono corsi e controricorsi. Del resto ricordiamo che le 100.000 assunzioni di cui stiamo parlando nascono proprio da una bacchettata dell'Europa, e tu lo sai molto bene, Gigi, proprio sul precariato. Ieri cosa è successo? Il Consiglio di Stato, con due ordinanze, ha stabilito che vanno iscritti senza alcuna riserva nelle graduatorie della scuola primaria e dell'infanzia i diplomati magistrali esclusi. Si tratta di circa 5.000 persone diplomate appunto magistrali del 2001 e 2002. Questi, secondo gli avvocati che li hanno rappresentati, dovranno essere dunque reinseriti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e della primaria. A cascata dovrebbero essere rifatte dunque tutte le graduatorie dalle quali si sta pescando per queste assunzioni. Il MIUR ha rassicurato, ha detto che in realtà si procede esattamente come previsto e che quello che succederà stanotte sarà esattamente come stabilito, però di fatto insomma non c'è proprio da stare tranquillissimi. Il MIUR ha detto: escluso qualsiasi congelamento del piano di assunzioni, i diplomati di cui stiamo parlando saranno inseriti alla prima tornata utile, cioè l'anno prossimo. Vedremo, perché ci saranno comunque sicuramente dei ulteriori ricorsi. Su questo non abbiamo dubbi, e come sul fatto che naturalmente continueremo a occuparci, e soprattutto nei prossimi giorni, del tema a scuola. Quindi Maria Piera Ceci la sentirete spesso sul pezzo, come si dice. Grazie allora, grazie, buon anno scolastico anche a te. Grazie. E adesso parliamo di nuovo invece di migrazione. Lo facciamo, ieri abbiamo parlato, diciamo, e continuiamo a farlo, di quello che è l'aspetto macro, i grandi flussi, la stazione di Budapest che chiude, il CARA di Mineo ieri, ma anche oggi naturalmente, ma poi c'è tutta un'altra parte che possiamo definirlo micro, chissà. Ne parliamo con Paolo Erba, che è sindaco di Malegno. Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'interessamento. È un piacere. Dov'è Malegno, sindaco? Malegno è un comune in Valle Camonica, che è una valle alpina a 70 km a nord di Brescia. Sull'Oglio? Sull'Oglio, perfetto. Molto bene, però, vista sul fiume. Beh, sa, non siamo poi così lontani. Tra l'altro strade di bellissime montagne. Esatto. Ecco, sindaco, io dicevo il micro, quella è anche un'altra parte. C'è una quantità, francamente io non so dire il numero, di comuni italiani che in questo grande marasma si sono dati da fare. Hanno detto: vediamo un po' cosa possiamo fare per contribuire a gestire questo problema, che è reale. Ci racconti allora l'esperienza della Valle Accogliente. Sì, allora, l'esperienza della Valle Accogliente nasce 4 anni fa, e quando ci fu una grossa difficoltà, cioè l'invio in un luogo bellissimo, lo diceva anche lei, da un punto di vista turistico, che è Monte Campione, ma che è attualmente a 1200 metri di altitudine, e l'invio di 116 richiedenti asilo. E tutto andò bene a settembre, quando iniziò ad arrivare il freddo si crearono dei problemi anche di ordine pubblico, e allora i 42 comuni su 100.000 abitanti, siamo proprio tanti piccoli comuni, si fecero solidarietà con gli altri, con i comuni che avevano questa difficoltà, dicendo: vabbè, se 116 sono una grossa difficoltà per un piccolo comune da gestire tutti assieme, se li dividiamo 4-5 per comune, la cosa diventa molto più facile. E quindi nacque l'idea della microaccoglienza diffusa, che significava di fatto inserire 4-5 richiedenti asilo in appartamenti privati oppure pubblici, se c'erano comuni disponibili, e gestirne l'accoglienza in maniera molto più semplice, che sia come costi sia come soprattutto problema di ordine pubblico, ecco, o gestione. Ma allora, per capire, il comune, lei ha detto di fatto sono 42, ma il vostro comune quanti abitanti ha? Il nostro ne fa 2050. 2050. E quanti tra richiedenti immigrati in attesa di carte avete? Noi adesso ne abbiamo 8, 2 appartamenti da 8, da 4. 4. Quindi 4. 8 su, scusi, ci diceva? Su 2060 persone. 2060 persone, quindi 8. Ecco, la chiave sta nel numero allora, cioè riuscire a distribuire in maniera... Che poi è un po' il grande tema di nuovo che stiamo affrontando a livello europeo. certo. Io provavo a fare con semplicità un conto. Se la proporzione fosse quella che teniamo noi, potremmo accogliere in Italia 240.000 richiedenti asilo, cioè due volte e mezzo quelli che ci sono attualmente. E tra l'altro, con sincerità, in una maniera che non crea difficoltà al territorio. Le difficoltà sono più comunicative, soprattutto negli ultimi mesi. Che cosa vuol dire che le difficoltà sono più comunicative? Ma sa, sono 4 anni che ci sono questi richiedenti asilo e tanti miei concittadini non lo sapevano neanche. Cioè, perché... lei dice i media non se ne erano neanche accorti? Esatto. Ok. Perché noi abbiamo perché più o meno il 10%. Lei ha voluto essere educato, ma ho intuito. Quindi lei dice 4 anni fa nessuno si occupava, forse perché i numeri di nuovo non erano però così importanti. No, certo, però nel mio paese sono sempre stati 4 più 4, quindi concretamente la differenza nella comunicazione del fatto che ci fossero dei richiedenti asilo sul territorio si è un po' modificata da quando l'opinione pubblica e alcuni partiti hanno avuto l'interesse a far saltare fuori il problema. Ecco, a proposito di partiti, problemi, la Valle è, credo, a meno che sia cambiata recentemente, terra di Lega, terra quindi con un forte orientamento anche in posizioni che i leader politici almeno esprimono in un certo modo. Si ritrova questo poi quando si ha a che fare con, diciamo, gli esponenti locali dei partiti, oppure c'è un atteggiamento più da valle e quindi da territorio, per cui il ragionamento diventa diverso? Ma la Valle è strabica nella gestione politica, perché mentre quando va a votare vota di fatto le politiche, per capirci, vota spesso, certo, la Lega o partiti di questo e tipo. E quindi espulsioni? Esatto. Poi nella concretezza le amministrazioni comunali sono praticamente quasi tutte civiche e di fatto di orientamento di centro, centro-sinistra per la maggioranza. E diventano accoglienti, o meglio restano, perché lo sono sempre state. Okay. Grazie Paolo Erba, direi che questo racconto sulla Valle accogliente ci dà anche un po' davvero di ossigeno per un quadro che invece sembra così spesso, insomma inevitabilmente, ed è complesso, drammatico per certi versi. Grazie davvero al nostro ospite, abbiamo ancora un ospite cui do il benvenuto, la professoressa Luisa Musso, buongiorno. Buongiorno. Allora, la professoressa Musso dell'Università di Roma 3, a capo della missione archeologica Leptis Magna. Ora, Leptis Magna, in questi giorni si parla tanto di Palmira, giustamente e in maniera drammatica. Il Mediterraneo è quel grande forziere di tesori. Leptis Magna, dunque, la Libia. In questi giorni noi sentiamo che tutto questo patrimonio è minacciato. Qual è la situazione a Leptis Magna, dunque, sulla costa libica? Dunque, mi sembra un po' di parlare in fondo controcorrente, perché le notizie che avevo fino a pochi giorni fa, sono sempre in contatto permanente col Dipartimento delle Antichità della Libia, registravano una situazione non di allarme. Detto questo, sappiamo bene che le condizioni evolvono rapidamente, quindi da quello che si vede, che si sente dalle ultime ore, potrebbero esserci un'accelerazione di rischio. Fino a poche settimane fa... Ah, certo, la situazione è molto mobile, questo è il minimo mobile, che si possa dire. È difficile anche fare, diciamo, anche pur rimanendo, essendo in contatto permanente con colleghi, con amici, cioè, è difficile poi fare una proiezione di quella anche a breve della situazione. Professoressa, una domanda secca: per che cos'è Leptis Magna? Perché è preziosa? Allora, per noi è importante perché Leptis Magna rappresenta un esempio dell'integrazione di una città provinciale, una città che è vissuta prima di Roma, ricca già prima di Roma, ma l'inserimento nel sistema giuridico, amministrativo, culturale romano ha fatto esplodere a livelli, positivamente evidentemente, a livelli diciamo di potere, di ricchezza, di significato. Quindi non è stata la capitale dell'Africa consolare perché era Cartagine, ma è una città che ha esercitato una grosso diciamo, controllo di un vasto territorio e che per tutta la sua storia dimostra questa volontà di integrazione nella cultura romana, cioè una città nata non romana ma che ha cercato dall'epoca di Augusto in avanti di inserirsi, quindi che ha fatto propri i valori, diciamo, della così, romanità, della di quello che era della Roma imperiale. Romana. Luisa Musso, io le chiedo se ha voglia di essere con noi domani o nel corso della settimana, perché adesso il mio clock mi dice che è tempo di viabilità, purtroppo siamo andati un po' lunghi, ma noi vorremmo riprendere, se lei è disponibile, questo discorso per parlare anche di come questo patrimonio del Mediterraneo sia a rischio, magari non solo, non necessariamente per l'ISIS, ma anche a volte solo per incuria. Spero di riaverla con noi in settimana. Intanto la ringrazio e ora è tempo degli aggiornamenti per chi è in viaggio.